apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mattinatina perigliosa questa, devo dire. Fino a pochi istanti fa abbiamo rischiato di fare la trasmissione al telefono. I sotterranei di Roma sono completamente allagati, compreso il palazzo di questa radio, dove sta la centrale elettrica. Potrebbe forse andare via la corrente da un momento all'altro, ma continuerei eroicamente a fare la trasmissione al telefono, quindi anzi, è una ragione di più per cui in questa mattina, in cui sono particolarmente fragile e debole, mi serve il sussidio e l'appoggio e il conforto del pubblico che chiamerà numeroso all'800240024. Di cosa parliamo questa mattina? Beh, abbiamo molto parlato del corpo nella giornata di ieri e mi sembra abbastanza palese che di fronte alle seduzioni della carne la mente talvolta possa appannarsi. Per oggi vorrei rovesciare il problema, ammesso che possa essere questo un problema. Quando le seduzioni di una mente eccelsa, di una mente brillante, quando l'intellettuale provoca fremiti carnali, qual è il fascino dell'intellettuale? Quanti cedono al fascino dell'intellettuale? Ma dove sono questi intellettuali? Già definirli è una situazione difficilissima. Io passo per un intellettuale, perlomeno nella reazione che vedo del pubblico, sono tutt'altro che un intellettuale. Sono una persona ignorantissima, ho fatto l'università con almeno 5 anni fuori corso, a scuola ero sempre l'ultimo, ero un maestro nel copiare, nello sfruttare i migliori, nell'aggirare i compiti in classe, nel dare gli esami sempre con il professore più disponibile, sempre nell'orario in cui erano più stanchi, nell'arrampicarmi sugli specchi. Ma è facile oggi passare o millantare l'essere un intellettuale in una sorta di omologazione verso il basso, di tendenza alla fuga dalla complessità così totale. Quindi l'intellettuale, bene o male, nei luoghi in cui egli regna, ha una sua fortuna insperata e molto invidiata dagli altri uomini. Beh, quanti hanno provato brividi, quanti hanno ceduto, quante hanno ceduto soprattutto di fronte a una giacca stazzonata, a una barba non curata, a un calzino scalcagnato, a una camicia orlata di scuro, ma di fronte a quel fluire di parole, di fronte a quei concetti così astratti, di fronte a quella meraviglia di animo interiore che poi tutto in un attimo si svolge in una frettolosa, infogliata consumazione, poi l'intellettuale si dilegua, sparisce, non è più intellettuale, mostra la sua meschinità, insomma la decadenza dell'intelletto si vede nella decadenza dell'intellettuale dopo la consumazione. Partiamo con un esempio molto calzante. Sono pochi gli esemplari di intellettuali destinati alla divulgazione di questa meraviglia della natura, ma la televisione italiana in particolare ne ha avuta una sua epica rappresentazione. Ci fu un momento in cui la persona che stiamo cercando di definire, ma nella sua forma migliore, senza stazionamenti, senza cattivi odori, era un intellettuale con anche una forma fisica molto apprezzabile, con dei begli avambracci muscolosi che ostentava tirando su le maniche della camicia nivea come era niveo il suo spirito nel raccontare, declamare i sensi sottili e profondi che legano in una sinestesia meravigliosa le arti espressive più sublimi come la musica, la letteratura e la poesia. Cercare è una parola nostra e in questa parola c'è ancora la memoria di una parola greca che significa cerchio. Vi dà proprio il senso dell'interpretazione di un gesto. Cioè un uomo che piglia un piccolo spigolo del mondo e incomincia a girare in cerchio, a cercare. Naturalmente lo vedete l'istintivo animalesco rifarsi a un'immagine, no? Non vi scandalizzate, abbiamo compiuto un interessante e periglioso esperimento socio-emozionale antropologico. Abbiamo sottoposto una nostra collega, che lasciamo nell'anonimato naturalmente perché già è stata molto generosa nel sottoporsi a questo esperimento, a una visione di Alessandro Baricco in uno dei suoi antichi programmi televisivi. Abbiamo registrato con una sofisticata apparecchiatura termoidraulica, quelle che erano le reazioni profonde di questo soggetto femminile, elaborata e strutturata per percepire fino in fondo quelle che erano le sottili, subliminali fibrillazioni e che giungevano dall'intellettuale verso i profondi riposti intimi e sollecitabili sensi femminili, e la macchina ha dato questo responso, questo straordinario mix fra sensazione parossistica di piacere femminile e le parole dell'intellettuale che uscivano, colpivano, scalfivano, penetravano, si insinuavano. Beh, chiaramente non siamo tutti Baricco, ahimè, tutti abbiamo invidiato Baricco, tutti avremmo voluto essere Baricco, ma soprattutto non tanto per il dono dell'intelletto, per la straordinaria sensibilità nel cogliere questi sensi poetici nella realtà che ci circonda, ma per la normale e ponderosa fortuna che immaginiamo avesse nel pubblico femminile. 800 24 00 24, subite il fascino dell'intellettuale. Esistono intellettuali fascinosi, esistono donne intellettuali fascinose, perché è facile fermarsi all'intellettuale come il maschio, il professore universitario, l'assistente del professore universitario, lo scrittore, il divulgatore, la persona nota, il frequentatore di salotti e di congressi, ma esiste anche la donna intellettuale. La donna intellettuale è molto pericolosa, devo dirlo, perché è una tipologia di femmina rampante che circola molto anche negli ambienti dei giornali. C'è sempre la collega occhialuta, apparentemente dimessa, apparentemente priva di stimoli, che riesce immediatamente a arrivare e giungere ai vertici del potere del giornale. Perché? Perché ha qualcosa che non hanno gli altri, non hanno le altre. È più fascinose, più disponibili, è più carnalmente sorridenti, ma quella sorta di rovello che sembra che l'uomo rappresenti il completamento, ciò che lui non può essere. La femmina intellettuale è tremenda, è rapinatrice, è divoratrice, è assassina, è implacabile, e anche, devo dire, riesce facilmente a collocarsi in luoghi privilegiati per la forza del suo intelletto. Non c'è nulla di male in questo, non c'è nulla di riprovevole in questo, ma cominciamo ad analizzare la nostra case history. Una fanciulla che abbiamo preso, che lasciamo naturalmente sotto pseudonimo perché non possiamo rivelare in frangenti così intimi l'identità di una persona, che è stata così cortese di porci la sua esperienza. Una fanciulla carnalmente molto dotata, che chiameremo Delfino Curioso per dare un esempio di mimesi possibile, che ci ha raccontato negli ambienti universitari, che oggi sembrano essere al centro della cronaca più calda, come avviene questo filo sottile della fascinazione tra professore, che rappresenta il potere dell'intelletto, e studentessa, che rappresenta la preda desiderosa di attingere a quella fonte che pare inesauribile, ma naturalmente si esaurisce molto presto. Mi chiamo Paola, ho studiato biologia. Fin da quando ero matricola ho subito il fascino delle persone che mi trovavo davanti a insegnare, sia che questi fossero i giovani assistenti piuttosto che addirittura appunto il professore stesso. È veramente il fascino che questa persona ha su di te, perché è interessato alle stesse tue cose. Lui è arrivato dove forse tu vuoi arrivare o dove non osi neanche pensare che potrai arrivare. Altre volte invece questa persona fisicamente magari non ti piace neanche di tanto, però appunto qui è il potere, il gioco psicologico che lui ha su di te, il sapere che comunque dovrai passare da un'interrogazione presso di lui, dovrai essere giudicata, ci tieni anche ad instaurare un rapporto speciale, a distinguerti rispetto al gruppo. Ci sono già alcune reazioni su Facebook che avevo allarmato questa mattina sul mio probabile blackout, mettendo anche una foto di me al buio di fronte a un quadro elettrico che parlavo con il telefonino, illuminato dalla pallida luce di una torcia, per impietosire perlomeno quelli che mi seguivano in anticipo dai loro luoghi virtuali. Perché mi telefonassero, mi dessero subito della materia per fare comunque la trasmissione. Per esempio Bianca Luce dice: la parola intellettuale spesso non si accompagna con intelligenza, soprattutto creativa. Crusa quella che non ti fa avere il clown. Poi sinceramente l'abbaglio del fascio intellettuale decade se il dimesso si accompagna alla trascuratezza, ignorante, acqua e sapone. Quindi è contrario all'intellettuale che aggiunge al suo fascio il fatto di essere trascurato, sì, perché l'intellettuale non ha tempo per curare la propria persona fisica, non si perde in queste bassezze che sono dei cedimenti tipici dell'ignorante, della persona ottusa, l'intellettuale così forte del suo fascino, del suo potere, che può anche imporre agli altri la propria puzza. Giorgio, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei è intellettuale? Ma io mi sono sempre considerato tale, però ho visto che comunque non è una carta da giocare in maniera così determinante, nel senso che sia io che tanti altri che conosco con questa intellettualità, almeno dal punto di vista del riscontro verso l'altro sesso, non ci facciamo molto, ecco. Cioè, quindi lei fa parte di un club di intellettuali sfigati, diciamolo. Esattamente, esattamente. Ma no, ma è una categoria che conosco bene, quindi non c'è nessuna difficoltà ad ammetterlo. No, secondo me il fascino dell'intellettuale, come ho anche già scritto su Facebook, è sempre collegato al potere, ho anche scritto... Bravo, questa è una cosa esatta. Non esiste un intellettuale morto di fame che non abbia una cattedra universitaria, che non scriva libri, che non faccia conferenze, che non vada in televisione, che riesce a usare il suo intelletto anche in maniera costruttiva dal punto di vista dell'affettività o della relazione. Questo è vero, deve essere intellettuale di potere, sennò la gente gli ride in faccia, gli tira una secchiata d'acqua, dice puzzi. Appunto. Se Baricco fosse stato disoccupato avrei voluto vedere la reazione della collega. Sì, ma adesso non fermiamoci sul povero Baricco, che ha avuto, ahimè, la sfortuna anche di essere carino, quindi abbiamo preso lui, lo abbiamo sottoposto all'orgasmatica prova, ma ce ne sono un'infinità di altri. Soprattutto non si vedono molto, si vedono raramente in televisione, la televisione lambisce, ci sono signorine intellettuali che fanno programmi nella nottata densi di significati, che naturalmente se non avessero quel tipo di visibilità sarebbero delle tranquille professoresse di liceo o di università. Certo. Andiamo avanti nell'esperienza personale della nostra cavia umana. Cose più ingenue possono essere arrivare a lezione, sedersi sempre davanti, mettersi sempre in modo sorridente, salutarlo quando si incontra in giro per l'università, cercarlo, capitare per sbaglio a ricevimento o andare apposta a ricevimento facendo finta di non aver capito cose per chiedere spiegazioni, piuttosto che fare sempre domande a lezione, studiare prima quello che lui andrà a spiegare nella prossima lezione, far vedere che sei avanti rispetto agli altri. A me è successo molte volte di magari avere delle conoscenze pregresse o di farmele apposta per fare breccia, per distinguersi dalla massa delle altre persone. Sembra che la nostra cavia umana stia naturalmente confermando quello che aveva già detto il nostro ascoltatore. L'intellettuale non ha un suo fascino a priori, ma il fascino dell'intellettuale è dato anche dal fatto che la sua vivida luce sia amplificata, sia mostrata, abbia una visibilità e un consenso. L'intellettuale che non ha consenso può usare il suo intelletto per andare ai giardinetti e parlare ai piccioni, ma non avrà sicuramente quel tipo di presa nel sesso opposto o anche nel sesso omogeneo. Non vogliamo fermarci di fronte a così banali suddivisioni di fascino legato a una classica spartizione di generi. L'intellettuale piace comunque, piace a tutti, piace a uomini e donne, animali, oggetti inanimati, cortecce di alberi. L'intellettuale ha fascino quando l'intellettuale unisce a questo fascino anche il potere. Questo è il primo passo avanti. Mi scrive Lara: purtroppo la carne è debole, alle volte fa combinare troppi guai. Vediamo un po' se abbiamo qualche di fronte alla mente la carne debole, scrive anche Maria Cristina. Anche se c'è intellettuale, il migliore è quello del tipo: non mi si nota di più se vengo o se sto in disparte. Ci riferiamo a modelli molto datati, molto legati a quelle figure dell'intellettuale di sinistra, radical chic, con le giacche stazzonate in velluto, con le scarpe Clark scalcagnate, con i pantaloni stazzonati, che fa dire a quelle brave ragazze, figlie di buona famiglia, figlie, nipoti di massaia: ah, quanto mi piacerebbe poter stirare quei pantaloni. Quando si entra in sintonia, quando il rapporto inizia ad andare oltre quello che è il rapporto fra un professore e una studentessa, quando subentra una certa intimità anche negli argomenti, si inizia a parlare della vita privata, magari in un momento di debolezza della tua vita, magari ti sei appena lasciata con il fidanzato, il professore, che comunque è diventato tuo amico, inizia a consolarti e si entra in un circolo di legame legame che porta poi appunto a cercare un sostegno non solo psicologico, ma può scattare anche quello che è un'attrazione fisica, sessuale. Ecco il momento fatidico che tutti conoscete. Signore, signorine, telefonate, vi prego. Ieri ho lodato la vostra massiccia presenza nel parlare delle virtù e della dignità della carne. Oggi mi sembra che sia un terreno piuttosto periglioso, perché voi vi esponiate, ma proprio per questo mi servite. 800240024 è il momento del terribile affondo dal quale non si torna indietro. L'intellettuale, uomo di potere, è colui che in sé è padre, fratello maggiore, fidanzato, marito, figura atavica e ancestrale, trova la sua vittima nel momento di debolezza. Il momento di debolezza corrisponde molto spesso a una delusione sentimentale, all'uscita da una storia, un momento di confusione, un momento in cui ci si dice con la persona con la quale si divide in quel momento la propria affettività: prendiamoci una pausa di riflessione, devo guardare dentro me stessa. Beh, in quel momento il marpione intellettuale, che ha strumenti di elaborazione abbastanza raffinati, probabilmente ha studiato psicologia, probabilmente conosce l'animo umano, probabilmente è passato attraverso esperienze di vita molto intense, probabilmente è semplicemente molto figlio di puttana, quindi capisce quando la vittima è in un momento di debolezza. E allora lui subentra citando i classici, subentra citando i maestri del profondo, subentra mostrandosi attento, subentra facendo piccoli cedimenti a quella sorta di aurea presenza su una colonna che lo mette in un luogo altissimo e impenetrabile, comincia a discendere lentamente, fare finta di scendere lentamente, è la scala che lo pone in un luogo privilegiato. E la vittima si sente illuminata, si sente baciata dalla fortuna. Ma come? Si occupa proprio di me e si accorge che la persona che lei pensava assorto nei libri, nella letteratura, nella meditazione zen e nell'ascolto di musica classica, nel sorbire raffinatissimi liquori che soltanto lui si fa venire dalla Scozia o dall'Irlanda, da luoghi simili, si occupa anche delle sue banali vicende di cuore. E da quel momento lei è finita. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Ci stiamo avvicinando alla sua esperienza, o lei ha ancora altri elementi da aggiungere alla nostra definizione? No, volevo ribaltare un po' la visione sull'intellettuale, passando all'intellettuale maschile, la figura che lei ha delineato prima, a quella di un intellettuale femminile, perfetto. In carne ed ossa, che esiste qui a Modena, che opera, è una direttrice di galleria. Sì, ma non la definiamo troppo, dopo ci denuncia. Certo, senza fare riferimenti precisi. Comunque è una signora che ha un ruolo importante nella cultura della città. Sì. Infatti viene poi anche da fuori, la città dal punto di vista culturale è un po' provinciale, quindi lei gode già di questo prestigio, il fatto che viene da fuori. Quindi impazziscono tutti per questa donna. Sì, è una donna giovane, piacente, e direi che rispetto alla figura dell'intellettuale maschile che lei delineava prima, ha la caratteristica peculiare di essere molto organizzata, curata, per niente trascurata, per niente trasandata. Quindi c'è una mutazione genetica rispetto agli stereotipi di cui noi siamo schiavi, ahimè, e vittime, sta delineandosi. Anche in genere una caratteristica femminile, quella di essere più organizzata, più puntuta, insomma. Puntuta cosa proposito. Significa? Spieghiamoci bene. Puntuta significa efficace, acuminata, cioè agguerrita, preparata, insomma. E questo non mette gli uomini in difficoltà, ma anzi li stimola, dice. Un certo tipo d'uomo è affascinato dalla severità intellettuale di una direttrice. Certi uomini sono anche affascinati dalle frustate sulle chiappe, quindi figuriamoci. Alla fine si arriva anche a quello. Allora questa direttrice, in realtà, più che direttrice, è una maestra severa, e questo probabilmente suscita brividi nell'immaginario, naturalmente, dei modenesi. La vedete come l'insegnante severa che non avete avuto, che ancora sognate per tutta la vita? Certo, che però insomma ha un certo fascino innegabile, insomma. Va bene, è interessante, perché abbiamo aggiunto una casella in più in questa difficile e affascinante ricerca delle mutazioni dell'intellettuale. Qual è l'intellettuale contemporaneo? Riponiamo la domanda: che riesce a far fremere di sensi incontrollabili la carne di chi contempla il frutto benedetto del suo intelletto? Né rossi né neri, solo liberi pensieri. non tanto pensieri liberi, ma pensieri libertini, quelli che hanno colto la nostra cavia umana. Paola, studentessa universitaria, ci racconta i rapporti sottili, misteriosi, seduttivi fra docenti e fra loro allievi. Oggi parliamo del fascio dell'intellettuale, 800240024, e stiamo lentamente ricostruendo, secondo parametri nuovi, moderni e contemporanei, questa figura un po' vizza, che ancora ha questo senso radicale chic anni 70-80 di intellettuale stazionato, ma stiamo vedendo che anche le armi seduttive dell'intellettuale stanno mutando, e soprattutto questa mattina in cui gli studenti sono in piazza, i professori sono in piazza, chi rimane tra i banchi e le aule cosa fa? Professore, inizia, ti invita magari a ricevimento, a parlare con lui, oltre magari l'orario stesso in cui riceve gli studenti normali, ti invita a prendere un caffè, a discutere all'inizio di quello che stai facendo, di cosa ti piacerebbe fare, della tesi, ti prende in tesi, ti dà dei consigli e poi si inizia a parlare d'altro, si esercita questo potere che il professore ha anche grazie alle conoscenze che lui ha e ti può aiutare ad arrivare magari in un posto dove tu vuoi fare la tesi piuttosto dove vuoi fare uno stage. Io ti aiuterò, io farò di te una grande giornalista, questo accade nei giornali, quando arriva una stagista, quando arriva una collega in prova, quando arriva una collega in sostituzione, in cambio maternità, c'è subito il collega bravo, marpione, potente, che l'avvicina subito, gli dà consigli, gli legge il pezzo, gli riscrive il pezzo, gli monta il pezzo se stanno in televisione o alla radio, le dà grandi consigli, la invita fuori, racconta la sua mirabolante carriera, quella volta che lui fece lo scoop meraviglioso, quella volta che affrontò la morte per scrivere un pezzo che solo lui aveva, e gli racconta la sua epica quotidiana. Quello non è l'intellettuale, ma l'intellettuale a lanciare forti segnali fascinosi in questo caso è il ragazzo o la ragazza appena arrivata, che è fresca di studi. Gli studi freschi rappresentano una boccata di freschezza per chi magari si è avvizzito in lunghi anni di fronte a un desk, ma nelle aule universitarie accade qualcosa di simile. La forza viva e la sete di sapere delle studentesse, delle laureande, delle dottorande, delle assistenti e via dicendo, è naturalmente la manna che scende dal cielo per nutrire il desiderio di contaminazione del professore. Inizia a darti delle cose che forse tu ti senti di dover cambiare in qualche modo e io so appunto in alcuni casi, soprattutto a biologia, professori beccati con delle studentesse piuttosto che con delle dottorande in atteggiamenti inequivocabili nelle sale di microscopi piuttosto che nelle sale buie dove si sviluppano le lastre fotografiche eccetera. Con una mia amica è successo che con il più giovane degli assistenti del professore è iniziata una certa simpatia che poi è proseguita nel tempo fino a che il ragazzo ha atteso che la mia amica superasse l'esame. In questo caso si è comportato bene, perché tante ragazze flirtano con l'assistente piuttosto che col professore direttamente per avere una facilitazione nell'esame. Cosa accade nella stanza dei microscopi, nella stanza degli esperimenti biologici, quando vengono colti sul fatto, con il sorcio in bocca, come si dice a Roma, assistente, professore, studentessa, o studente, professoressa, o studente, professore, o professoressa e studentessa, così l'abbiamo dette tutte, beh, diranno stiamo facendo un esperimento, stiamo studiando. Buongiorno, Elena. Buongiorno. Beh, io direi che i professori nei decenni passati, almeno io ho 64 anni, sono sempre stati seducenti, o le professoresse per i ragazzi o le ragazze o per chi vuoi, insomma. Ma non è un fenomeno di oggi, questo è chiaro. No, per me il professore rimane comunque il professore. L'intellettuale è una parola, secondo me, abbastanza un tormentone, una parola abbastanza vacua che dovrebbe rappresentare una tua teoria e già già così mi fa un po' impressione. Sì, non è una bella parola. Innanzitutto, chi si autodefinisce un intellettuale è velleitario, è ridicolo, è trash dirsi io sono un intellettuale. Definire un intellettuale non lo trovo nemmeno molto carino, perché già si colloca in una figura molto ambigua, mi sembra, non so, per l'accezione che ha avuto negli ultimi decenni l'intellettuale e per quanto ci abbia massacrato profondamente le parti basse, l'idea che l'intellettuale avesse qualcosa da dire, è d'accordo? Non ho capito. Cioè, gli intellettuali si sono talmente inflazionate, persone con... quello che dice lei, allora. Invece io personalmente, se posso dire, ciò che mi seduce è la leggerezza, la vaghezza, non so, la visionarietà dell'intelletto, che poi è cultura, insomma. Che non ha nulla a che fare con la figura dell'intellettuale, ma in effetti è un po' schifosetto. No, è trasversalissima, non è una categoria. Perfetto, la troviamo anche negli idraulici. E dicevo, è schifosetto pensare che qualcuno approfitta in realtà di un potere, piuttosto che di un dono dell'intelletto, per sedurre. Sedurre è lecito, farsi sedurre è lecito e anche auspicabile, ma naturalmente farlo quando c'è un gioco di potere non è una cosa propriamente bellissima. Rieccoci addirittura d'arrivo nella fase conclusiva della nostra riflessione sul fascino dell'intellettuale. È possibile subirlo, abbiamo capito che è facile subirlo, abbiamo anche capito che l'intellettuale tout court in realtà esercita un fascino relativo, perlomeno non fa cedere le fortezze inespugnabili della virtù carnale, ma magari, non so, affascina, piace, ci si condivide il pensiero. L'intellettuale deve avere anche un luogo di potere, un posto di potere per poter esercitare il suo fascino intellettuale. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è una studentessa? No, magari, ho quasi 42 anni, non sono più studentessa. Perché magari? Preferisco una 42enne che le studentesse che vedo girare per strada e mi hanno impedito ieri di tornare a casa, quindi ben sono venga. Sono stata civettuola, me la sono presa come fa. È stata civettuola? Momento. Sì, e io sono stata studentessa e anche prolungata perché ho fatto anche un dottorato. E la mia esperienza è questa. Ma poi è riuscita a entrare nell'università oppure... Ha cambiato. No, era difficilissimo e poi personalmente preferivo la professione, continuo a collaborare con l'università, faccio il tutor degli studenti e quindi in qualche modo sono anche un po' passata dall'altra parte. Cioè in che senso? Guardi, l'argomento oggi è l'intellettuale che esercita fascino carnale. Esatto. Ah, quindi lei ha sedotto i suoi studenti? La seduzione secondo me è una cosa che viene un po' da sé ed è anche positiva. Sì, assolutamente. Studiare, riflettere è pesante. Sedurre vuol dire portarsi dietro. È chiaro che un professore deve portarsi dietro gli studenti. Esatto, anche per trasferirgli la propria materia. Cioè è una cosa quasi inconsapevole, per lo più secondo me è positiva. Studiare è difficile, è impegnativo. In quel di Camerino ci sono stati episodi in cui i professori poi... esasperavano personalmente questo trasferire di materia del professore sugli studenti, sulle studentesse in questo caso, però sono casi limite, noi parliamo di intelletto. Prego. Infatti, allora io anche mi sono tra virgolette innamorata di uno dei miei professori, perché? Perché sono quei professori, diciamo così, intellettuali in quanto la loro materia la trasferiscono con una certa emotività, passione, quindi lo studente coglie questa possibilità. Ma ha provato anche a portarsela a letto il professore, tanto per... No, non c'è stato bisogno, assolutamente, nel senso che c'è stato questo trasferimento e ci si guardava anche negli occhi brillanti e io ho fatto dei passi avanti. C'è stato anche il tradimento da parte mia del professore, perché poi andando avanti negli anni è stato un altro professore che mi ha affascinato e il precedente professore, ahimè, ha dovuto registrare anche non troppo bene. Cioè lei l'ha tenuto sulla corda ma non ha mai ceduto? Ma certo, perché in realtà così si fa, normalmente. Il passaggio dell'intelletto, e ora che faccio il tutor e vedo che gli studenti vengono da me per essere aiutati, sostenuti nell'avanzamento universitario, sono seducenti, sicuramente, e questo piacere però aiuta, poi può trascendere, cioè anche il professore ahimè, può avere la sua famiglia distrutta oppure insomma una vita grama dal punto di vista sentimentale, quindi può cedere al fascino della studentessa, così viceversa per la studentessa, ma in sé questo piacere che si prova nell'affrontare delle materie che magari sono anche difficili aiuta al percorso, cioè io lo vedo anche positivamente. Cioè diciamo far dare un'annusatina in senso lato alla propria disponibilità facilita anche la progressione negli esami. La disponibilità però, ecco, la vedo diversamente, forse da come si potrebbe capire così. No, perché io penso che se una cede con un professore, poi deve cedere con tutti, comincia un tour de force veramente faticoso, quindi tenere tutti fibrillanti e non privilegiare nessuno, però lei la vede come una chiave furba per uscire. Che si nutre, va benissimo per il professore, più fibrillanti in competizione ci sono e meglio è. Io credo di sì, quello che ho visto, sì, è questo. Ci piace aver avuto una conferma in questo giorno che sembra l'università ridotta a uno sterile rapporto di decreto sì, decreto no, sapere che serpeggiano comunque dei sensi anche più legati alla passione, alla frequentazione umana, alla considerazione dell'uomo in sé, non per la sua disciplina, anche nelle nostre università. Grazie Francesca, buongiorno. Pronto? Sì, Francesca. Buongiorno. Io vorrei fare alcuni distinguo. Prego. Prima di tutto c'è il fascino dell'intellettuale che però non esercita un potere e proprio per questo è un uomo affascinante. Sì, però abbiamo capito che non batte nemmeno un chiodo. Questo meno mi è sembrato di capire. Se non esercita un potere. Invece che riuscirà a battere un chiodo e veramente poi lo mette fino in fondo. Questo per me è il vero intellettuale, ovvero è un uomo che pensa. Cioè un'acqua cheta, però la volta che lui si impegna lascia il segno. No, non è che si impegna, vive in questo senso, quindi non ha bisogno di impegnare. Ecco, mi faccio un esempio di intellettuale fuori dai circoli del potere universitario, giornalistico, letterario, che secondo lei potrebbe avere speranze. Certamente, certo, anche se cioè, può essere dentro questi circoli, ma nello stesso tempo anche fuori. Cioè, si capisce che non ha bisogno di questi circoli per essere una persona di potere. Sì, di solito potere. Chi ha il potere può anche avere un rapporto di leggerezza e apparente disprezzo con il potere, ma se uno toglie quel sostegno è come una lampadina a cui viene tolta l'energia elettrica. Ma io vorrei portare sul piatto un altro esempio, sennò sembra che soltanto negli Atenei si consumino questi meravigliosi o turpi mercimoni, a seconda del punto di vista, e parliamo di Marina, che è rimasta toccata, colpita e abbandonata e frustrata e vivificata nella sua esperienza personale del rapporto con un intellettuale. La passione che più mi ha stravolta, tra virgolette, è stata la passione per uno scrittore noto. È una persona che tra l'altro io sfuggivo, perché in cuor mio sapevo probabilmente che lui non era la persona adatta, o forse lo era troppo, e l'ho vissuta in maniera fulminante. Sono stati 4 anni di inseguimenti, cioè io inseguivo lui e quando io sfuggivo lui inseguiva me. Non c'era molta tenerezza in questo rapporto, c'era violenza, c'era una violenza mentale. Ecco, Marina si è invaghita, innamorata, appassionata, un rapporto di inseguimento, di mordi e fuggi, di nascondino con uno scrittore, poi dice un noto scrittore. Ancora una volta l'intellettuale, fuori dell'aura felice, della notorietà, sarebbe un intellettuale riconosciuto postumo, ma l'intellettuale postumo nel suo riconoscimento, nella sua riconoscibilità di essere un intelletto superiore, non interessa naturalmente avere più fascino, perché ormai è fantasmatico e quindi incorporeo. Ho finto di essere un'altra persona, gli ho scritto delle lettere firmandomi e scrivendo anche con un'altra calligrafia, fingendo di essere un'altra, perché per assecondare il suo immaginario, perché dopo 2, 3, 4 anni anche lui probabilmente non vedeva più determinate cose dentro di me o in me, e quindi forse voleva spaziare col suo immaginario in un'altra persona. Lui si è innamorato di quest'altra persona tramite lettera. Questa persona ero io. Naturalmente Marina capisce che per fare breccia nel cuore dell'intellettuale occorre entrare in un gioco intellettuale, sennò sarebbe troppo facile essere la normale, consueta preda dell'intellettuale, quindi la persona sprovvista di strumenti, la persona cedevole, la persona che soffre della sua inferiorità intellettuale, perché l'intellettuale ha questa meravigliosa facoltà di far sentire tutti come dei vassalli del suo intelletto, e quindi naturalmente questo esercita molte volte un potere a volte vessatorio, a volte sadico, a volte pesante da sopportare. Vedo dalle reazioni su Facebook che la figura dell'intellettuale comunque ha molto stimolato le fantasie. Nel bene o nel male torneremo su questo tema, visto che ci ha profondamente esaltato, e cito che non lo faccio mai per mia negligenza, per mia disattenzione, non per mia cattiva volontà di riconoscere il profondo valore dei miei colleghi, Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, senza i quali non riuscirei a millantare per spirito intellettuale il mio povero parlare. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.